Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera a tutti voi e grazie per essere in ascolto della nostra trasmissione. Intanto salutiamo il nostro Antonio Ceccato. Buonasera Gesi e buonasera a tutti. Ecco, tutto bene. E poi abbiamo questa sera, cari, abbiamo un ospite molto importante, un ospite che è stato già, questo è un giro di parole, è già stato ospite diverse volte nella nostra trasmissione, quindi non è più nuovo. Però è sempre molto molto gradito e abbiamo con noi il poeta trevigiano Emilio Gallina. Buonasera Emilio. Buonasera Gesi, buonasera Antonio e a voi radioascoltatori di appunto Blu Radio Veneto e un cordialissimo saluto. Al nostro... Ringrazio logicamente l'emittente, ringrazio Gesi dell'invito e sono qua per l'ennesima volta. Bene, e noi diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88.70 e 94.60 in FM. Per chi lo desidera, naturalmente, c'è la possibilità di seguire il programma in streaming o di scaricare il podcast della trasmissione dal sito bluradioveneto.it. Ma prima di cominciare con la prima canzone, e sarebbe opportuno che Emilio ci dicesse questa sera di cosa si parlerà. Ma certo, Gesi, è un pezzo che ci lavoravo su e questa sera, in questa trasmissione, volevo ricordare una carissima amica, purtroppo scomparsa, una poetessa di straordinaria, come dire, di una straordinaria sensibilità. La volevo ricordare. Adriana Scarpa, veneziana di nascita e trevigiana di elezione, una, diremo così, una donna, una poetessa che ha lasciato una serie molto importante di lavori. E è mancata il 19 ottobre del 2005 e purtroppo, come capita ad altri poeti e altri artisti, spesso e volentieri dimenticata. E questo mi dispiace molto, ma credo che faccia parte un po' dell'andamento della natura umana. E comunque questa sera la ricordiamo con una scelta di poesie principalmente dedicata alla sua Venezia, perché su Venezia ha scritto moltissimo. E quindi... Bene, Emilio. Allora cominciamo con la prima canzone, Antonio. Che è Vecchio Gondolier di Umberto da Preda, monotematica naturalmente, sì, la certo. Trasmissione. Sempre se Venezia Benissimo, allora torniamo in studio e diamo la parola al nostro ospite, al signor Emilio Gallina. Grazie del signor Gesi. Che è stato citato come il miglior poeta dialettale trevigiano. Oh Gesù, non lo sapevo. Grazie. Io te l'ho detto e vuoi sapere chi ha detto questa frase, che ha ripetuto? Incuriosisce. È certo che mi incuriosisce. Ecco, è il professor Enzo De Mattè. Il carissimo amico De Mattè, sì, ecco. Che c'è stato l'altro, pochi giorni fa, un incontro alla biblioteca comunale, dove sua figlia ha presentato uno dei suoi libri di poesie, di Buon Sangue Non Mente. Comunque... Io ringrazio, non pensavo di questo perché le sorprese mi sono sempre in agguato. Mi fa piacere. Allora, partiamo con la lezione, perché penso che gli ascoltatori si prestino le orecchie ai suoi versi, ai versi di questa grandissima donna per me, che non ha da invidiare nessuno delle grandi poetesse italiane e anche qualcosa di più. Cosa ci leggi, Gesi? Se volete cominciare, vogliamo cominciare con le poesie. Certo. Allora, lei faccia il timoniere, dai, signor Emilio Gallina. Cioè, la barra destra, barra dritta. sì. Gesi, parti. Ne hai una? Sì, pronta. Ottimo. Pronta qui, bella calda. Ottimo. Non c'è magia che ci soccorra. Se all'improvviso un lampo di memoria ci riporta alle pareti ora stinte di una stanza in penombra e la luna smette di migrare, se un eco di parole risveglia il silenzio e dalle nebbie padane riprende forma un volto, è questa l'ora che si fa seta l'aria ed ambra le gote della sera. C'è chi si affretta a chiudere i cancelli dell'anima, altri si barricano dietro porte serrate perché smuove inquietudini la malinconia e passa un brivido. Il tempo pare fermo, l'usignolo smette di cantare, attende forse che accada una magia. Ma non esiste magia che ci soccorra. La vita ha ormai scandito ritmi ove il ricordo è una fune tesa sopra pozzi d'ombre e noi gli equilibristi. Unico indizio dei nostri giorni d'oro è una scheggia di sole che a volte ancora ci illumina lo sguardo. È bellissima, è molto brava, ha delle illuminazioni straordinarie. Sì, sì. Questa donna. Sì. E Antonio, che adesso ci succediamo nella lettura, ci leggerà Fui padrona incontrastata. E questa prima parte è un po' direi così dedicata alla sua quasi infanzia, diremo così, cioè sui primi tempi della sua permanenza a Venezia. Fui padrona incontrastata di fontane e di pietre. Mia sicurezza vitale era abbandonarmi in dialoghi muti con le chiese, con le vecchie crepe sugli altari, ferite inferte dall'uomo che non crede. Io credevo nel tempo che sbocciò sul mio corpo le tuberose dei seni e fermentò le vene. Una marea di alghe filtrò le mie matasse di pensieri, levigò le bianche braccia. Era il mio viso che si stagliava sul rosa e sull'oro delle sere. Era il mio viso che si specchiava nell'acqua cheta dei canali, sulle vetrate di luna. Molto bella anche questa. Sì, sono tutte belle, adesso commentarle. Sì, sì, appunto. È un po' una perdita di tempo, non perché lo meriti, ma effettivamente parlano da sole. Ecco, io leggerò invece una raccolta, la prima raccolta che lei ha fatto nel 64, titolo Poesie, La mia Venezia. L'ho scoperta da sempre la mia Venezia, ho sete delle sue acque fruscianti nella sera, delle sue voci lontane nel tempo e delle luci cangianti in palpiti d'oro. Adoro il suo sole che accende nelle calli pietra dopo pietra, che saluta tutte le finestre, una per una. Adoro la sua luna così diversa e strana, e dolce, sorridente e lontana. Adoro il pozzo, amico delle pietre, dei miei pensieri notturni. Adoro i giorni trascorsi nell'ozio ad ascoltarla, a osservarla, a conoscerla, casa per casa, muro per muro. E adoro il suo abbraccio fatto di placide acque, ove posa il pensier mio giunto alla sera. Straordinario. Passo la voce a Gesi, sì. Se non ricordo male, fa il monologo di Penelope. Sì, bravo. Allora, monologo di Penelope. Anche oggi io sono seduta quieta nell'attesa. Non mi servono porti verso cui fare rotta. Sono io la rada sicura, l'ormeggio cui verrai dopo scali, dopo isole bionde. Oggi ancora sono io la piccola maga del focolare, la padrona della reggia, la spiaggia è la grotta dove tu fermerai il volo, mio gabbiano. Se ti mostrassi le tele che ho tessuto per te, le lune che ho sacrificato di notte dentro le bocche dei pozzi, se ti narrassi gli aromi dell'erba, l'accanto e il mirto e il tempo lunghissimo della macina nel frantoio, 10 e 10 sono degli anni che lasciarono segni bianchi. Gli zoccoli dei cavalli hanno scavato solchi nelle pietre. L'erba ha coperto il suono delle voci. Solo la tua mi è rimasta come una ferita e io ripeto il tuo nome dentro la solitudine circolare di queste colonne che delimitano il mio restare sola nel mondo. È sempre un inno alla sua Venezia, anche se un po' di malinconia. Abbastanza malinconia qui c'è. Sì. Comunque a Venezia ha dedicato moltissime sue poesie nelle varie raccolte. E Antonio ci leggerà adesso Entro nei broccati di Regina. Da qui ho iniziato la mia vita vagabonda. Lasciai trame di sole e greggi d'aria sui muri, quando fanciulli si aveva coce agli approdi, e barche con cui sfidar la ruggine del tempo. Il domani mi si è dilatato in altri luoghi, e ogni ritorno qui è un sasso pigro che apre cerchi nella mente. Entro nei broccati di Regina con frange d'arcobaleno, con frammenti di secoli. I cieli che ho vissuto qui, le labbra, le paure, le stagioni, sono terra di lusinga, e se un argento di luna scivola oltre finestre a bifora e per carezzare fianchi di angeli, solo nei sogni di notte io posso restare con la mia ombra lunghissima, con le mie fiabe d'infanzia. Poi le orme polverose segneranno i gradini bianchi, i marmi su cui riposano le immagini assopite prima di rituffarsi a picco dentro il cuore. È sempre un inno d'amore alla sua città, questa. E effettivamente io sono incantato da questo suo scrivere e questo suo amore per questa città. Ma veramente ha un amore proprio viscerale, però nello stesso tempo dolce, molto intenso, ecco, diciamo. Sì, infatti lei è stata via... poi per motivi di lavoro e di vita, logicamente molto ha dovuto staccarsi da Venezia, ma vi è sempre ritornata con molto entusiasmo. Ecco, io leggerò, sempre restando in tema, c'è un indicibile sacro. C'è un indicibile sacro tra gli archi e sotto le acque, un tenue respiro, il fuoco che a sera ingemma l'orizzonte. In questo silenzio ritma la stella di Venere e passano altissime voci. Sulle barene il gabbiano stanco affascina più che se ritto sugli alti pinnacoli. È da questa magia che salpò lieve Venezia per imbrigliare reti di sole e di acqua dentro forme scavate nell'aria. Qui dunque visse il mio spazio primo, la mia città di raggi abbacinanti, dove l'alba ruba il violetto alle farfalle. C'è ancora un incredibile sacro qui, tra gli archi e sotto le acque. Sì. Adesso abbiamo facciamo fatto due sestine. Una prima tornata, facciamo una musichetta, non una sì, canzone. Adesso... La seconda canzone è sempre di Umberto da Preda, Venezia t'amo. Venezia t'amo, m'hai ricordato il primo amore. Venezia t'amo, la più bella poesia d'amore sei tu, la mia felicità. Addormentarmi ancora tra le tue braccia, amore, udirti sospirare, parole sussurrare, mentre la gondola va e scende l'oscurità, sentirsi avvolti nel mistero di questa magica città. Morir d'amore, morir di gelosia, e la passione mia mi fa tremare il cuore. Poterci ritrovare per non lasciarci più. Venezia t'amo, m'hai ricordato il primo amore. Venezia t'amo, la più bella poesia d'amore sei tu. Incantesimo d'oro, il mio segreto l'ho confidato alla laguna, sotto la luna, ricordando quel tempo lontano che fu. La mia felicità. Venezia t'amo, in questa dolce serenata improvvisata, ricordando quel tempo lontano che fu la mia felicità. Venezia t'amo. Eccoci di nuovo in studio con il nostro amico Emilio Gallina, al quale lasciamo naturalmente la descrizione e la parola. Sì, grazie Antonio. come dicevo, queste poesie dedicate a Venezia, e mi ripeto, sono un atto d'amore. E infatti adesso Jesi ci leggerà gentilmente un'altra delle poesie che lei ha scelto. Io vengo da una storia d'acque per cantari e maree. Sì, anche questa è una poesia straordinaria e la sentirete. Io vengo da una storia d'acque. Incostanti le onde mi hanno portata ora sullo scoglio, ora sono stata alga sull'arena. E rinasco da raffiche e maree, creatura di corallo madrepora sul fondo, crisalide di spuma. Io rifiuto le attese, sono la prua che fende l'isola di nebbia, il grecale, il gorgo e la nereide, il penetrato silenzio della sponda. Quest'acqua io l'ho pensata a corpo più leggero del respiro, forma ignota e dischiusa, essa mi tocca, acqua che porta, fiore di spuma senza vento, mia ritrovata madre segreta, reca un messaggio dove si spande con le mani purissime deterse, vapora senza inizio, senza fine. Dentro lei mi confondo, mi frammento, mi stendo smemorata. Acqua che è fuoco e brivido, mia fonte di profumi, di suoni, di colori, mio infinito orizzonte. È sempre bella. Qua effettivamente ha messo in evidenza quello che può essere la parte e cuore di Venezia. L'ha fatta con dei versi stupendi. Direi come, sì, so di ripetermi, ma abbiate pazienza, ma è così, è effettivamente atti d'amore verso la città, come dicevo. Infatti come questa seconda che leggerà Antonio e raccontare Venezia, qui invece esalta quello che può essere la Venezia delle pietre, dei palazzi, delle acque delle isole, ma importante è questa sua, il vivere la città e goderne di tutti i suoi aspetti, sia per la luna, l'acqua quando monta con le maree, è un altro atto d'amore che lei fa alla sua città. Raccontare la città. Voglio spiegarti questa città con le voci e i capelli di alga, col frusciare di tende e l'odore dell'incenso bruciato. Piena di eco e ricordi, ogni svolta si allaga di azzurro e l'acqua è seta dolcissima. Il vento si imperla sui marmi, su bifore e cupole a guizzi di luce. Eppure la pietra rimane pietra in questo congiungersi palpitante di acque e di isole. Io vivo questa città quando di notte sale la marea e mi coinvolge caviglie, polsi, viscere. Marea pulsante, mia linfa vitale, seduzione dell'acqua che accarezza sensuale, quietissima mi avvolge dentro braccia di alga. Io amo questa città, mistero impenetrato che mi affascina, radice che mi avvinghia, stupenda. La mia voce su cuspidi e pinnacoli è fiotto di alabastro e di cristallo. A notte io, anfora salsedine, scivolo nel suo abbraccio laguna, mi infondo nel rifugio liquefatto di un mantello di luna. Parla da sola, effettivamente. Che bella, che poesia. Che... No, no, guarda, ha dei tocchi, ha delle illuminazioni, sì, come sì. Dicevo, che l'hanno fatto una grande poetessa. Sì, sì. E, come dicevo prima, non è seconda a nessuno. Io lo paragonerei forse al pari di Alma Merini, effettivamente, per altri aspetti, perché certo, lì certo. C'è tutto un altro, sì, discorso poesia, sotto. Sì, è proprio completamente diversa. Però questa è una parte dei suoi temi, perché ha toccato vari temi. Ho scelto Venezia perché per fare proprio omaggio a questa veneziana che effettivamente ha dimostrato di amare la città in tutti i suoi aspetti. Come la propria madre, naturalmente. Una madre, diciamo. Esatto, ecco, esatto. Leggiamo. E infatti, giustamente Antonio diceva come la madre, come una madre Venezia, ma adesso la Gesi ci leggerà una poesia dedicata alla madre, facciamo una parentesi. Perfetto. Perché anche questo è uno dei temi a lei molto caro. Visto che l'avete anche nominata. Mia madre ha salito la scala santa in ginocchio. Mia madre ha percorso il viale del santuario a Pompei a furia di genuflessioni, sgranando il rosario tra le mani. Mia madre ha avuto e ancora possiede una fede incrollabile per ottenere il miracolo. Mia madre riesce a parlare con Dio e instancabile chiede, sa bussare alla porta mia madre. Come il cieco o come l'infermo dei Vangeli, lei sa come farsi ascoltare. Effettivamente, ecco, anche questa è un atto di amore verso la madre, effettivamente. Eh sì. E io vorrei leggervi, sempre dedicata a Venezia in questo caso, molto breve, a volte non si trovano parole perché direi quasi si ripetono e quindi i commenti a volte diventano quasi superflui. Sì. Mm-hmm. E qui saltano fuori appunto, questa è la voce di Venezia praticamente. Probabilmente penso abbia sentito qualche gondoliere cantare, quindi penso, è un pensiero mio. E ha messo giù questi versi. Città che in me voli è dedicata a Venezia. Superfluo dire. Certo, sì, perché l'unica voce s'affida serena all'onda tranquilla sui marmi. I lumi sfavillano dalle logge e i mosaici come un trittico d'oro del 300. La canzone librata nel tempo senza peso si spande giù per il Canal Grande e all'Accademia. Scoppia in perle rotolante dentro Palazzo Franchetti. Gareggia col vento sui tetti, danza sulle cupole spiegate della salute. Mi riconosco nella tua voce corale e gemmante, città dei miei primi giorni. Sospinta, dondolata, dolcemente vado per te che in me voli con le tue ali aperte. Non dimentica niente di Venezia, effettivamente, i suoi luoghi, dal Canal Grande. Ma penso che la percorra tutta, cioè che a ogni quasi quasi a ogni angolo dedica una poesia. Sì, vero? Le ricordo, è vero. Per allora, esempio il campo di Ghetto. Di Ghetto, questo qua, sì. Solitaria, nella rete del sole, giace la piazza. Balconi tanti e vuoti guardano con occhiaie scheletriche il quadro di cielo sospeso che accoglie volteggi di rondini in festa. Ad ogni finestra bandiere di tutti i colori si piegano al vento, poi s'aprono e svelano panni d'odor di liscivia. Pigra la vecchia fontana versa col suo borbottio spruzzi d'oro d'intorno e il sole li asciuga. Le pietre già mute ora mostrano verdi vite che sbocciano tra crepa e crepa, e poi il sorriso dell'aria e del sole dà loro la vita. Anche questa è molto bella. Sono dei piccoli bozzetti, sì, straordinari, sì. Questi. Ti sembra di sentire l'odore di liscivia. Quasi degli acquarelli di Guidi che lei fa. Decisamente. È veramente, sì, un... Vedere una estemporanea di questa donna invece dei quadri appesi, vederli in lettura. Bene, adesso ci ascoltiamo un'altra canzone, no. Antonio? Che è Ciao Venezia. Bene. Ciao Venezia, ciao Venezia, ciao Venezia, ciao ciao ciao. Ciao Venezia, ciao Venezia, ciao, ciao ciao. Così bella non ti ho vista mai, addormentata sul tuo mare. Sei come una favola che non so narrare. Tante cose dire ti vorrei, le vecchie case salutare. Mi sento ridicolo e non so parlare. Ciao Venezia, ciao Venezia, ciao Venezia, ciao ciao ciao. Ciao Venezia, ciao Venezia, ciao, ciao ciao. Non potrò dimenticarti più, vorrei portarti via con me. Mi sembra impossibile non tornar da te. Io ti lascio un po' di gioventù, un po' di vita, un po' di cuore. Ho voglia di piangere nel lasciarti ancora. Ciao Venezia, ciao Venezia, ciao Venezia, ciao ciao ciao. Ciao Venezia, ciao Venezia, ciao, ciao ciao. È lontano il ponte dei sospiri, ma io continuo a sospirare. Aspetto il miracolo di poter tornare. Lentamente l'ora di partire mi sta portando via da te. Carezzo una gondola e non so perché. Ciao Venezia, ciao Venezia, ciao Venezia, ciao ciao ciao. Ciao Venezia, ciao Venezia, ciao, ciao ciao. Ciao Venezia, ciao Venezia, ciao Venezia, ciao ciao ciao. Ciao Venezia, ciao Venezia, ciao, ciao ciao. Eccoci di nuovo in studio col nostro ospite, il signor Emilio Gallina, denominato il miglior poeta dialettale di Treviso. Mi tocca pagarti un ombre. Ah beh, ma guarda, questo, questo è poco ma sicuro. Bene, allora continuiamo con la nostra lettura delle poesie della, d'accordo, di Adriana Scarpa. Io sono in debito di una poesia, mi permetto di richiamarvi all'ordine. Va bene, ci si richiama. Monellacci, Monellacci. Esatto. E, sempre restando nel campo di Venezia, per finire appunto la seconda tornata, dovevo leggere Ruga degli Orefici, uno dei tanti punti che, di Venezia, come diceva la Chetti, la Gesi, che sono quadretti effettivamente che lei ha fatto della sua città. Ruga degli Orefici. Oggi Ruga degli Orefici s'intana per l'inverno. Addormentate dentro le vetrine stanno le filigrane titillanti e gli ori adagiati sui velluti rossi. Smaltati sono gli occhi dei ricordi ora che sopra gli archi indugiano infreddoliti i colombi dell'estate. Sui banchi del mercato è crepuscolo di colori. Maschere di nebbia offuscano l'antico scintillio delle vetrate e un eco di piombo sfalda gli intonaci. Il senso della luce consuma l'attesa della nuova stagione, quando coleranno ancora dardi d'oro nel volo degli uccelli e dentro specchi liberti torneranno ad accendersi le gote colorite di ragazze che hanno trecce di fiori tra i capelli. Una volta usava che le ragazze si mettevano i fiori nei capelli, adesso si mettono grandi pettinini. Sono un pochino diverse, sono molto molto dipinte oltre che tatuate a volte. Il tempo cambia, il tempo cambia, c'è una canzone che lo diceva. È una Venezia invernale, un pochino questa, è tratta da Murales e di Luce. E ritornando sull'autrice, nonché sulla Scarpa, dovrei dire che dunque io, come l'ho conosciuta. Dicevo che è nata a Venezia nel 41 È morta giovane, poveretta. Purtroppo sì, ed è mancata il 19 ottobre alla clinica San Camillo. L'abbiamo commemorata. Ha sofferto anche molto, sfortunatamente. Infatti il suo ultimo libro, Incosciente saggezza, che è uscito un postumo, voluto dal fratello, e lì, anche lì sempre un canto alla vita, nonostante la sua sofferenza, la sua, diremmo così, tribolazione. È stata una donna veramente, a parte la come poetessa, ma anche è stata una donna innamorata della vita. Quando ha lasciato Venezia è praticamente andata pellegrina un po' per il Veneto, come funzionario di banca. E dopo vari spostamenti è stata Vicenza, è stata Padova, in altre città. E poi è capitata a Treviso, mi pare verso gli anni 70, se non ricordo male. E io l'ho conosciuta, tanto per dire alcune cose, e l'ho conosciuta al Circolo degli Amici della Poesia, al Circolo di Alessale, El Sil, quel circolo che ancora dopo 40 rotti anni sussiste, tiene botta, che era stato fondato dal dottor Andrea Cason e da Alberto Albanese Senior. E di questi personaggi sarebbe bene parlarne, perché è andato... Merita, è andato sia il dottor Cason per certi aspetti, come personaggio straordinario, e Alberto Albanese Senior, che era un po', faceva il tipografo, era una persona molto umile ma molto brava anche come poeta. E può essere che si possa anche parlare una prossima trasmissione di questi due personaggi, e parlare anche del circolo degli Amici della Poesia. Certo. E come ci hanno incontrati con questa Adriana in quel pomeriggio, c'è stata subito una empatia, ci siamo, tra virgolette, piaciuti subito. Sì. E infatti mi ha contagiato con la sua poesia, e siamo rimasti amici per tanto tempo. Ha fatto parte di numerosissimi concorsi letterari, oltre ad averne vinto, ne ha vinto un sacco di concorsi. La cronistoria di quello che ha vinto ci vorrebbe una trasmissione intera. Solo di primi premi ne ha vinti 270. Mamma mia! Una cosa straordinaria, incredibile. Sì, veramente. E molti hanno scritto di lei, ma nomi piuttosto importanti, decisamente, da partire da Ungaretti, da Zanzotto, Carlo Bo, Caproni, più recentemente Giandomenico Mazzocato, ma anche altri, solo per citarne alcuni. Per quello dicevo, è una poetessa, direi, di alto livello, veramente, e purtroppo, come accennavo, non dimenticata solo, ma poco conosciuta a Treviso, perché se tu chiedevi anche a alcuni amici del SIL chi era Adriana Scarpa, non si sapeva. I vecchi forse la conoscevano, ma non era conosciuta, perché era molto schiva, tra l'altro. E quindi è stata un'apparizione molto importante nel mondo della poesia al femminile. L'abbiamo commemorata proprio. Sì, l'abbiamo ricordata, mi pare, un'altra volta qua. Anche altrove? Sì, effettivamente, in un incontro proprio dedicato a lei, quando fu presentato Incosciente saggezza, la sala verde del municipio di Treviso, al Palazzo Rinaldi, è stato un bellissimo incontro. Sì. Decisamente. Abbiamo letto La Rina e Dio. Sì, è vero. Riprendiamo. Allora, forza, allora. Jesse. Forza. Tocca a me. Esatto. Sì, dai. Ecco, quindi, infatti, da Incosciente saggezza leggo Canto di Allodola Felice. Se apro porte e finestre ed esco da me, se muovo le ali della mia libertà e la gioia fa lievitare il peso del corpo, guardate là, in alto, dove lo sguardo si perde nella luce. quell'incredibile aquilone che conosce i venti. Lassù è salita l'allodola felice, quella che canta i giardini d'inverno, quella che accarezza i capelli del grano e possiede il segreto del tempo. Verde, radioso, sulle mie foglie, sulle mani che vuotano e colmano oceani, tesori che cantano preziosi. Mi farò battacchio di campana e chiarina d'argento per conquistare voce rampicante. Porterò addosso memorie di stagioni, cavalli ed occhi di felicità. E come accennavo qua, credo che emerga il suo amore per la vita anche. E sì, è limitata la scelta dedicata solo a Venezia, perché sarebbe, Adriana ha scritto delle cose stupende, perché riguardanti sia il mondo femminile, i bambini, diremo così, l'amore, che ha spaziato in vastissimi temi. E quindi e sarebbe da riprenderlo oltre... però queste cose qua lo so io purtroppo... non ho mai letto queste dei, per esempio quelle dei bambini. Sì i bambini guardano la luna, che è una delle sue raccolte. Sì. Ed è bellissima veramente, ma ne ha, direi, sono tantissime le cose da leggere. Cosa vuoi, ci vorrebbero trasmissioni per darle onore che merita effettivamente. Esatto. Invece non abbiamo mai parlato, forse, no, se non ricordo male, di Cason, o sì? Dunque, con Cason, sì, è stato ricordato anche lui, anche questo uomo, praticamente è andato un po' in dimenticatoio, perché io vedo anche alle riunioni del SIL, si dovrebbe ricordare di più, leggendo anche le sue poesie, e questo purtroppo non si fa, e mi dispiace. Anche perché sono molto belle le poesie di Cason. Beh, alle dialettali, diremo così, Drio dell'acqua, quella raccolta, mi pare forse l'unica di poesie, perché poi ha fatto, era traduttore, sì, era, sì. Era insegnante di lettere alle serali. Ma Drio dell'acqua non è tua, scusa. Dimmi. Drio dell'acqua non è tua. Drio dell'acqua è un verso, probabilmente ho preso un verso suo che si intitola, che ha dato titolo a una delle mie poesie, che lo ricorda tra l'altro, sì, parla appunto, proprio di lui. Ritorniamo ad Adriana un attimo. Benissimo. E Jessy, tu ci leggi che cosa adesso? Allora, io... Pardon, io faccio confusione adesso. No, perché... chi è che tocca? Antonio. Dormirò questa notte. Chiedo nella scusa. Stanza. La casa, il campiello, la fontana ho rivisto. Ho ritrovato lo sciabordio dell'acqua nel canale e la soffitta vecchia col lucernario cacciatore di stelle. Più piccola ogni cosa, rattrappita sotto la lente concava del ricordo, ha evocato i fantasmi. Dormirò questa notte nella stanza dove l'arpa di vetro degli anni misurò il mio respiro, e la compagna che fui sta capovolta nella pozzanghera che si è sciolta dalla curva del cielo. Ora adulta mi sono fatta lontana, ma ancora cavalli d'immaginazione tracciano i segni del tempo sul muro di sale. Qui ha suono dolce la parola e la storia è chiara. Qui la barca è senza remi e scalmi e si guarda sempre il mare. Sì, questa sì, sono tutte belle effettivamente. Ecco, queste sono un po' il ritornare a Venezia, perché lei è sempre stata, come dicevo, legata a Venezia, e quando poteva era lì presente e rivive questi suoi ricordi del campiello, della casa sua praticamente materna o paterna, come si dice, e quindi è una continua memoria di questa città che le è rimasta dentro come il sangue nelle vene. Bene. Io vorrei leggervi questa, sempre restando in tema del ricordo e del ritorno. Qui riconosco, vedo, torna un triangolo di sole sulle pietre del campiello. Bambini, si andava vociando, guardiani di barche e di canne. L'alta marea alle caviglie schizzava spruzzi dorati. Oggi sono sbiaditi gli angeli affrescati sotto i portali erosi dal salso. Ideo gratias. Sosto in bilico sul cancello del tempo. Stride. Qui riconosco la nostalgia nell'aria. Gradini in pietra d'Istria, i giardini nascosti, mi annullo nel ricordo. Sì, un altro tema suo era quello dello, ecco, questi giardini dello sfarsi di Venezia, cioè quella consunzione continua di questa città, dei suoi muri, dei suoi palazzi, che il salso, il tempo, l'incuria dell'uomo purtroppo portano a una lenta agonia. Bene, ma sempre tutte belle. Adesso andiamo ad un brano musicale. No, prima un'altra poesia. Allora. Ah sì, Jerry, scusa perché sono sbadato. Fiordaliso degli iridi, da incosciente saggezza. Conserva ancora gli occhi di ragazza mia madre. Chissà nel fiordaliso degli iridi quanti hanno tuffato gli occhi e hanno sognato e si sono perduti. Vesti colori solari, mia madre, mai cupitoni del grigio, mai il funereo nero. Porta calze velate con disegni minuscoli e colletti di pizzo e jabot. Il suo buongiorno al mattino è il racconto delle storie fantastiche che ogni notte lei sogna in Technicolor, ci dice. Talvolta di principi e armigeri, ancora sa amare le favole. Tal'altra di convitati di pietra. E Don Giovanni impenitenti, che forse le strizzano d'occhio. Mia madre oggi ha 90 anni. Bella età. Sì, bella, sì, effettivamente nei confronti della figlia effettivamente è stata sotto certi aspetti più fortunata. Il coro dei canonici. Ma tu l'hai conosciuto tu? Scusa. Della mamma? Sì. No, io ho conosciuto solo Adriana quando abitava in Viale Dalviano, effettivamente. Sì. Qua a Treviso. Il coro dei canonici. Così avviene che riscopro a ritroso, galleggiante, la bambina bellissima fra tendaggi d'oro. Ho lasciato qui le stanze segrete, le vene di giada ammiccanti gli specchi e i veli che odorano di alghe. Ho lasciato le bambole affacciate su bifore di silenzio, con occhi fissi dove nasce il sole. Ora è invecchiata l'innocenza e segna il giorno solchi sulle porte, ma una piuma dolce di consenso oscilla nel vento dei ricordi. Dentro i ricordi ritrovo ossessivo, martellante, il coro dei canonici a San Marco, salmi latini e volute d'incenso che salgono sul rosso dei mosaici. Lo sguardo travalica le cupole e guiz, spalancato vero il cielo. Bella anche questa. Sì, sono, sì. Sì, bella anche questa, sì. Oh, adesso io ho perso la pazienza. Leggi qualcosa tu adesso? Sì, dovrei leggere quello che non trovo vergognosamente perché sono un pasticcione. Beh, allora ascolta. No, sono qua. Ah, boh, bene. E questa è anche una grossa nostalgia, come si diceva prima, della sua città. Ed è lontana da te, Venezia. Cioè quando lei è partita ed è effettivamente rimasta con questa nostalgia. Lontana da te, Venezia. Sono stata lontana da te, mia città, inghiottita da giorni e notti che si sfasciavano contro la ruvida corteccia dell'insonnia. Quando ti cadrevo ormai dimenticata in una foresta di memorie, la tua mano gentile bussò piano all'angolo della mente e risentii il dolore dell'assenza. Le ombre chiare di notte sulle pietre attendevano i miei pensieri e il sole cercava il mio balcone chiuso. Avrei potuto stringere nella mano il vuoto della lontananza o la dolorosa solitudine del pozzo nel campiello, inondato dalla luna. E son tornata correndo, accarezzare i tuoi mattoni rossi e vegliare le albe che si accendono improvvise sulla laguna con la gioia di chi torna dopo l'incredula indifferenza a posare il capo sul seno della madre. Bella anche questa. Questa è bellissima. Questa allora, è bellissima. Facciamo un brano musicale? Sì. L'ultimo brano musicale che è Acqua Alta. Ah, sì, simpatica. Nel mese di novembre l'acqua cresce, tutti a noi andiamo qua. Col vento del sirocco bevo il poco perché l'acqua regna su. Chi tira sue braghe, chi cammina con le scarpe calcina. E chi sta piantene è il ganso da far, galletto che gaeggia, quei carighe, tutto il resto in casina. Partemo è acqua che caia, e acqua che cresce, nessuno vuole abbonare. Partemo è acqua che caia, e acqua che cresce, col cuo a moge se va. I gruppi dei turisti, chi si diverte tutto il vol fotografa. I fiori fai manca a scuola e i professori in classe proprio noi che va. I putei si fissa addosso, ma non importa tanto l'acqua porta il mare. 90-36, un ambo da rischiare, i vecchi so gallotto, qua speranza di a pensione arrotondare. Guardiamo l'acqua che cae, che cresce, nessuno vuole lavorare. Guardiamo l'acqua che caia, e acqua che cresce, poi cui a moglie se va. E donne con la borsa di a spesa e il papà diga cammina. Hai ore che voglia il cane o anfibio, ma è ancora da inventare. Poco mangeremo perché c'è il sevanza. Speriamo che domani si possa camminare e faccia cambiare tutto. Non bisogna mai a sto mondo di sperare. Guardiamo è acqua che... Mai di sperare a questo mondo. Avete capito, ragazzi? Vabbè. Ha detto adesso da preda che non bisogna disperare. Intanto io per... non disperarmi, leggo queste due poesie, sempre della nostra Adriana Scarpa. Io poco più che formica. Noi siamo soltanto segni nel tempo, ma io voglio lasciarla, la mia impronta, come un fossile nella roccia. Io incalzo con le domande e ricordo i perché, incido l'aria con la mia presenza. So che il mio occhio è di formica, a confronto con l'universo, ma come formica scavalco muri, sono un punto scuro, vivo, mobile. Formica sono e combatte i ruoli, le strade già tracciate, il sole calcinante sulla pelle, e sinché vivrò respiro le mie antenne e lanceranno messaggi all'infinito, minuscoli SOS nello spazio, che qualcuno raccolga, che qualcuno comprenda nel millennio domani il mio struggente desiderio di sconfiggere l'oblio. Molto bella. Sì. Adesso leggiamo un'altra poesia che mi piace molto, il Testamento. Nelle tue mani consegno i sogni irrealizzati. Falli vivere tu, se puoi,